slick chick. See, a neat chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click a slick chick. Yeah, yeah. A high heels on for the baby blues. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Man, oh man, what a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. But everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click a stitch. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stitch. She's a neat trick. But she what makes me tick. Mama. Clickety click a slick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah know she's a slick. Yeah, yeah. My, my, my, my, my. A slick yeah, yeah chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. A slick chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama. Yeah, yeah, yeah. Clickety click a slick chick. Slick Chick, bentornati e bentornate di nuovo su Radio Wombat. È un po' che non ci sentivamo, almeno con questa trasmissione, perché sì, in effetti mi ero presa un po' di, beh, meritate, direi, vacanze. Ma, beh, vacanze, insomma, poi non è che sono andate chissà dove, però di fatto non ero ai microfoni di questa radio. Beh, sì, effettivamente ve lo devo. Adesso ritorno a bomba con una puntata, secondo me, piuttosto interessante e un po' esplosiva, anzi direi scioccante. Sì, perché oggi, come ho già anticipato sul Wombat sito, che vi ricordo wombat.noblogs.org, oggi parleremo dello shock rock. Lo shock rock penso che non tutti sapranno che cos'è. Wikipedia dice, giusto per insomma avere delle basi culturali di un certo spessore, con il termine shock rock si identifica quella categoria di gruppi o i musicisti che eseguono solitamente durante i loro concerti esibizioni con temi sessuali, violenti, macabri o al limite della decenza, dal forte impatto visivo sul pubblico e sulla critica. Questo è quanto dice Wikipedia. In realtà diciamo che la cosa è un tantino più elaborata, più complessa di così, ma ecco, sì, i poveri di spirito potrebbero anche intenderla con queste due parole. Si potrebbe altrimenti dire che si è trattato di un, beh, un periodo non direi, perché in effetti lo shock rock è andato avanti per diversi decenni, ha attraversato vari generi musicali, vari stili, insomma non è che si è fermato ad un solo momento, però diciamo che è stato uno stile, ecco, che metteva in scena un po' gli incubi e però aveva in realtà paradossalmente poco a che fare con l'esibizione. È un tema che a me sta molto a cuore, quindi vi avverto già da ora che vi farò due palle così, però perché la questione dello stare sul palco, secondo me molto spesso, quando riesce bene, quando è fatta con un certo, beh, con un certo sentimento, diciamo, ha ben poco di dell'esibizione in sé per sé, e in realtà lascia a intendere qualcosa di molto più complesso e molto più profondo. Quando si parla dello shock rock, anche se poi per shock rock si intende un po' varie robe, addirittura possiamo parlare di shock rock anche quando si parla di Marilyn Manson, quindi insomma diciamo che c'è un po' di tutto, ecco, e non tutto è salvabile, però diciamo che sullo shock rock, quando si parla di shock rock si parla di un momento in cui sul palco si rivendica in qualche modo un'identità. Almeno questo è il mio pensiero. Un'identità multipla, inquietante, disturbante, in vario modo destabilizzante, e in un momento in cui poi, soprattutto all'inizio, in cui si è iniziato a parlare dello shock rock, perché si parla degli anni 60 più che altro, è un momento in cui i musicisti invece dovevano dissolversi nel pubblico, rispecchiandosi a vicenda tra musicista e pubblico in una rassicurante normalità. Lo shock rock invece, così come il primo glam, lo psychobilly, in parte potremmo includere anche la dark wave, chiamiamola così, portano alla luce sogni, incubi, soprattutto incubi spesso, ma non solo, e fantasie che la società normalizzata vorrebbe mettere abbastanza a tacere. E lo fa in modo affascinante, perché affascinanti sono queste fantasie che, bello o brutte che siano, fanno intimamente parte di noi. Questo è più o meno quello che secondo me rende interessante lo shock rock, e che vale la pena, che fa sì che ne valga la pena parlarne e anche un po' approfonditamente. Il primo a scioccare appunto il pubblico da un palco probabilmente è stato Screamin' Jay Hawkins, Stati Uniti, anni 50, fine degli anni 50, di fronte a un uditorio rigorosamente bianco, biondo e ben vestito anche direi, arriva questo nerissimo pazzo, che pazzo non era affatto, vestito da sciamano, con un osso al naso, piume, teschi e collanine e quant'altro, balbetta urlando, si dimena, strabuzza gli occhi, e soprattutto la sua voce irrompe cavernosa come in un rito voodoo. Vi consiglio, se non avete mai visto Screamin' Jay Hawkins, di andarvi a vedere i live, i video in televisione, nelle trasmissioni dell'epoca, se ne trovano diverse su YouTube. Ma tra l'altro, avete mai visto invece Bamboozled di Spike Lee? Se non l'avete visto, guardatelo, è una sorta di messa in scena dei minstrel show, che erano un po' le caricature che i bianchi si aspettavano dai neri e che facevano anche dei neri, i sibadrone, selvaggi, Mau Mau e tutte queste simpatiche cose. Ecco, Screamin' Jay Hawkins fa esattamente questo, in un periodo in cui non era proprio banale farlo. Fa una sorta di mistura, di mischione tra una sottile minaccia, perché poi in realtà era anche abbastanza minaccioso e inquietante, e una brutale presa per il culo, che all'epoca secondo me fu capita ben poco, e forse anche adesso. Fu il primo a uscire tra l'altro da una bara in pubblico, cosa che gli facevano fare perché poi aveva avuto un certo clamore, un certo successo, quindi gliela facevano fare all'infinito. Usciva sempre da sta bara in pubblico ai concerti, e fu il primo a creare quel potente immaginario che poi influenzò tutto il successivo psychobilly, e non solo, assolutamente. Ci ascoltiamo quindi Screamin' Jay Hawkins con una delle sue hit più famose, Feast of the Mau Mau. Cut the fat off the back of a baboon, boil it down to a pound, get a spoon, scoop the eye from a fly flying backwards, take the jaws and the paws off a coon. Take your time, I ain't lying, for good cooking, 'cause the rest of this mess ain't good looking. Take the fleas from the knees of a demon, till your pals and gals will come screaming to the feast, with the feast of the Mau Mau. They make wine from the spine of their bulldog. It's a test for the best for who stays at the feast with the feast of the Mau Mau. Brush your teeth with a piece of a goose toenail. After death, steal the breath of a drunken jail. pull the skin off your friend with a razor blade. In tonight, change tomorrow, bring back yesterday. Check your hip, bite your lip, and shoot your mother-in-law. Put on your gorilla suit, drink some elbow soup, and have a ball. Get it straight, don't be late, it's time for mad fun. Feast of the Mau Maus has begun. Ah! At the feast, with the feast of the Mau Maus, they make wine for the spine and they blow the house. It's a test for the best for who stays. At the feast with the beast of the Mau Maus. At the feast with the beast of the Mau Maus. How they talk, man? They go like this. How about this? How about you? How about you? How about you? And how do the women talk? What you want when you want to tell them you want some more to eat, man? Well, how about give me some more of that meat there? And pass me some of the inside of that pie. And spread some spread on it, you know, in between the toes. Yeah, sock it to the lab. But whoo! Sure tastes good, man. Give me some more of that inside soul. Yeah. Hey, what you mean you ain't got no more soul? Keep on eating that. Feast of the Mau Maus. They make wine from the spine of their bulldogs. They stick their thumb in their eyeballs and make people knowledge. Yeah, that's what's happening. Reach into his chest and pull out his ribs, man. Let me bite on that cat's bone. Sock it to me one time. Give him, brother. Give him. Inside five, please. Can I have a fried ear? Ma per ragioni sconosciute. Era bassissimo sto pezzo. Boh, che vi devo dire? La tecnica è sempre una cosa molto bizzarra. E c'è un altro screamer che ha fatto la storia dello shock rock. Beh, screamer si chiamava proprio Screaming anche lui, non a caso, perché in effetti il riferimento era proprio diretto a Screaming Jay Hawkins. E si tratta di Screaming Lord Sutch, meno conosciuto, parecchio meno conosciuto di Screaming Jay Hawkins, soprattutto in Italia. Beh, anche a ragione direi, perché insomma Screaming Jay Hawkins era di un'altra levatura, direi. Però ecco, è comunque molto interessante. Negli anni 60 inglesi del beat mescolato un po' alla psichedelia e all'horror, Screaming Lord Sutch inizia a presentarsi sul palco vestito da Jack lo Squartatore. La sua più famosa hit del momento era proprio Jack the Ripper. Alcuni di voi se la ricorderanno, tra l'altro un pezzo reinterpretato e rifatto da diversi altri, tra cui vari gruppi psychobilly. Esce dalle bare, quindi non solo Jack lo Squartatore, ma inizia un immaginario anche lui molto gotico, molto horror. Esce anche lui dalle bare, si dipinge la faccia di bianco, un po' stile scheletro, e spaventa a morte il lacrimevole pubblico di ragazzine presente agli show. Anche qui è inutile se vi ascoltate solo gli audio, perché in effetti quando si parla di shock rock dovete vedere per forza i video e come si conciavano questi personaggi. Ecco, Screaming Lord Sutch era particolarmente interessante da vedere. Ci sono dei video anche qui, sia di riprese televisive che di concerti veri e propri degli anni 60, e una delle cose più belle è vedere quanto il pubblico, davvero, che era composto essenzialmente da ragazzine, immaginatevi un po' il beat degli anni 60 e con quel pubblico urlante delle tipine che appunto impazzivano per i loro idoli. Ecco, quello stesso pubblico, quando gli arrivava questo personaggio spaventevole, cioè proprio avevano le crisi isteriche, c'erano proprio urli, ah, oddio! Ecco, è molto interessante vederlo e fa ridere un sacco. E non c'era mai stato niente del genere d'altra parte, e nel composto mondo inglese si produce un fertile cortocircuito che poi vedremo non è la prima volta che l'Inghilterra in qualche maniera accoglie, e beh, insomma, ne parleremo anche oltre. Su YouTube, appunto, potete vedervi questi video. Esiste anche, fra l'altro, un documentario proprio su Screaming Lord Soch, che è dell'epoca, che vi consiglio. Ahimè, nel 1999 il nostro si suicida impiccandosi. D'altra parte si capiva un po' che non era proprio una personcina allegra. E di Screaming Lord Soch ci ascoltiamo un pezzo non famosissimo, ma secondo me veramente veramente bello. She's Fallen in Love with the Monster Man. Night at the movie show, I parked my baby in the very last row. We were just making love, kind of kidding around, when the monster appeared with this crazy sound. My baby looked up, kind of mesmerized, and she gave a long moan, much to my surprise. Did the monster one fan. Yes, I've fallen in love with this monster man. She's fallen in love with a monster man. She's fallen in love with a monster man. Now, don't think I mean or I wanna complain, but the guy's too ugly and hasn't got a brain. With great yellow fangs reaching down to his chin, why, you just wouldn't go where this guy has been. Top of his lid, just a crazier kind of mixed up kid. Been sort of stitched up by a sewing machine, but my baby baby says, yeah, this monster's a dream. She's fallen in love with a monster man. She's fallen in love with a monster man. Now the monster was weird, just a little unreal. Seemed kind of short of a sex appeal. He was dragging his chains and groaning his groan. Not really a guy that a girl should take home. When it comes to the scene where the monster should die, my baby broke down and she started to cry. Said this monster I love in a strange kind of whisper. He's my kind of guy, 'cause I'm Dracula's sister. Taking a wife, this could be your girl, so run for your life. Run for your life. Eccoci qua, tornati sempre su Slick Chick, sempre su Wombat Radio o Radio Wombat, come preferite. Dopo Screamy, i due urlatori, da Screaming Jay Hawkins, Screaming Lord Soch, continuiamo. Beh, questa è una puntata, ve lo dico, non lunghissima ma serrata, mi verrebbe da dire. E proseguiamo quindi serratamente a ritmi forzati con un altro degli shock rocker del tempo, insomma sempre degli anni, intorno agli anni 60 parlavamo, a questo punto iniziamo ad andare quasi verso i 70 ma ancora siamo nei 60. E si tratta appunto di Arthur Brown. Arthur Brown aveva questa cosa buffa che tra le varie cose che faceva, ne faceva di diverse, lui si presentava in pubblico con un elmo infuocato, aveva proprio un elmo in testa con un aggeggio sopra che letteralmente andava a fuoco. E tra l'altro la cosa interessante è che, come peraltro succedeva un po' a tutti, via, che facevano queste performance sopra le righe, e però ogni tanto succedeva qualche incidente di percorso, cosa che li rendeva, secondo me, anche più simpatici, ecco, per forza di cose. Così come Screaming Lord Soch una volta rimase, pare, a uno show, durante uno show, imprigionato nella bara e non riusciva a uscire, cosa che rimase negli annali per un bel po'. Allo stesso modo, successe una piccola disavventura ad Arthur Brown, che appunto presentandosi sempre con sto elmo infocato, una volta sul palco di Windsor in Inghilterra, appunto, il metanolo usato per far bruciare l'elmo gli cadde, gli colò sulla testa, prese fuoco completamente, e due addetti alla security dovettero spengere le fiamme con la birra. Questo quindi era, vabbè, l'inconveniente del mestiere, ma d'altronde, a parte il fuoco, Arthur Brown faceva varie altre cose, come accennavo. Tra l'altro fu uno dei primi a fare quello che viene poi definito il corpse paint facciale, si dipingeva la faccia. Beh, anche Screaming Lord Sutch lo dicevamo prima, ma lui ancora di più, ancora più esagerato, che poi cosa che poi diventerà un po' uno standard per tutti quelli che vennero dopo, tra l'altro molti dei quali che afferivano un po' la scena metal, pensate anche soltanto ai banalissimi Kiss, ho detto Kiss. Vabbè, durante un tour a Palermo invece nel 1970, tra l'altro, Arthur Brown a Palermo, sottolineo, venne arrestato per atti osceni in luogo pubblico perché sul palco Arthur Brown si era spogliato, cosa che appunto al tempo non era per niente usuale, figuriamoci a Palermo. Quindi anche questo personaggino, la sua musica a mio gusto è un po' meno interessante di quella che abbiamo sentito prima, comunque è comunque cioè, lo stesso interessante per altri punti di vista, quantomeno da archiviare. E quindi ci ascoltiamo la sua hit più famosa, il suo pezzo più famoso, che è Fire, per l'appunto, giusto per essere un po' didascalici, Arthur Brown. I am the god of hellfire and I bring you fire. Rendendo conto in questo momento che non vi ho detto praticamente nessuno degli album da cui sono tratti questi pezzi, ma d'altra parte non ve li ho detti perché non me li sono neanche segnati, sono un po' arrugginita, lo ammetto, lo confesso, non ho segreti per voi, mio amato pubblico, e quindi andateveli a cercare, tanto l'internet è grande, ve li ritrovate. Ma adesso veniamo a uno dei più ovvi shock rockers, direi forse il più famoso e il, beh, in qualche modo anche più rappresentativo, dopo secondo me Screamin' Jay Hawkins, che per il quale è stato coniato il termine, che quindi insomma merita il primo posto in assoluto. Parliamo di Alice Cooper. Ora vi confesserò questa cosa: a me il primo Alice Cooper piace, ecco, ve l'ho detto, oggi sono in vena di confessioni, è andata così, mi piace, vai, non mi fa impazzire a piccole dosi, dopo un po' mi scogliono, però comunque mi piace. Il suo stile trovo che fosse di un'ironia brutale, sto parlando ovviamente del primo Alice Cooper, o comunque quello prima che iniziasse un po' la decadenza. Su quando è iniziata la decadenza se ne potrebbe discutere, non ho una conoscenza così approfondita per potervelo dire. In ogni caso aveva un'autoironia e un'ironia bella, secondo me brutale, diretta, e mescolava la sensualità queer glam all'horror. Era estremamente transgender, di fatto appariva come il primo, probabilmente uno dei primi travestiti a salire su un palco. In un'intervista che ho letto, un timidissimo Alice Cooper confessava che no, molte delle cose che gli attribuiscono sono false, che non ha mai sgozzato nessuna gallina sul palco, che i pipistrelli erano finti e che lui è sempre stato un dolcissimo tenerone. Nonostante ciò, l'immagine che gli Alice Cooper, il gruppo prima che si chiamava Alice Cooper e Alice Cooper individuo dopo, l'immagine che scelgono è un'immagine aggressiva, che si scontra direttamente con l'immaginario peace and love che in quegli anni dominava la musica e la cultura americana. La sua identità è orgogliosamente doppia e rivendica la violenta complessità del mondo in cui viviamo. In qualche modo Alice Cooper diceva: io mi rivendico di essere sia l'affettuoso maritino, comunque il personaggio tranquillo e tutto sommato pacato, che non è che nella sua quotidianità a casa sta tutto il tempo a far riti satanici, ma anche un'altra mia parte, un altro mio pezzo di io, che è quello violento, aggressivo, in qualche maniera disturbante, o che perlomeno a cui non vogliamo che non vogliamo mettere in luce. Una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dove però le due identità sono profondamente fuse e anche orgogliosamente esibite insieme, e insomma senza dimenticarne nessuna delle due. In questo, secondo me, Alice Cooper è sempre stato molto onesto e non ha mai finto di essere ciò che non era. Suo nonno, ora, perché poi alla fine una parte importante è le radici, la storia biografica. Suo nonno, Thurman Sylvester Fournier, era un apostolo della Chiesa di Gesù Cristo, di cui peraltro fa parte anche il padre. Insomma, se andiamo poi a indagare, molti degli shock rocker avevano un passato di drammatica famiglia cristiana, ortodossa e molto intransigente. Racconta Alice Cooper, vi leggo virgolettato: uno dei film preferiti della band era Che fine ha fatto Baby Jane, con Bette Davis, che in quella pellicola aveva spalmato in faccia e sotto gli occhi un trucco disgustoso e incrostato, con un eyeliner nero carico e spesso. Quel trucco così abbondante e malfatto le dava un aspetto orripilante. Un altro film che guardavamo in continuazione era Barbarella. Uno dei personaggi, The Great Tyrant, era interpretato da una formidabile attrice europea, Anita Pallenberg, che indossava vestiti di cuoio e una benda da pirata, oltre ad avere lame che le uscivano dal corpo. Il look di Alice Cooper si sviluppò come una combinazione di quei personaggi cinematografici femminili che con in aggiunta un piccolo tocco della Hem Appeal di The Avengers. Questo effettivamente era Alice Cooper e, beh, sì, direi che ci sta tutta la definizione. In più io ci metto un deciso tocco di queer e di quello che poi è stato anche il glam. Si parlava, ancora non era scoppiato il glam, sì, oltretutto si era in America, quindi terreno molto meno fertile, molto più difficile per certi versi, lo vedremo dopo. Ma insomma, Alice Cooper, direi che in quanto a shock, non soltanto di tipo horror, ne ha dati parecchi all'epoca. Alice Cooper quindi, I'm Hating. Rimaniamo in tema, molto legati sia come suoni, secondo me, per certi versi, che come ambientazione, che come stile, che come tipologia di shock, perché da Alice Cooper arriviamo a il glam rock, o meglio il primo glam rock e un po' il queerness, tutto ciò che riguarda la scena queer più o meno esplicita degli inizi degli anni 70. Se portare in scena la morte e l'horror, in qualche modo il goth, eccetera, risultava destabilizzante in un'America hippie puritana, potremmo stare a parlare ore di quanto gli hippie non abbiano liberato proprio niente, ma anzi abbiano contribuito a stabilizzare i ruoli e i generi predefiniti. Io su questa cosa sono molto tassativa e ho il dente avvelenato, ma non vi sparerò un pippone adesso su questa cosa, ma ve la butto lì. Diciamo che in quel momento, appunto, dove questo tipo di shock violento risultava destabilizzante, portare in scena un'identità queer e una sessualità orgogliosamente esibita, in qualche modo, ha messo in crisi invece l'Inghilterra. In Europa c'erano Bowie, T-Rex, gli Sweet, Roxy Music, gli Sparks, tantissimi altri. Ve ne ho già parlato fino allo sfinimento e ancora ve ne parlerò, non crediate di scamparvela. Ma per non rimanere sull'Inghilterra e sul terreno che già vi ho fatto sentire abbondantemente, dal loro esempio, con molta più difficoltà nell'essere compresi, sono nati altre stelle luccicanti, diciamo così, negli Stati Uniti. Si trattava di un mondo diverso perché sì, certo l'Inghilterra non era un terreno facile, era molto rigido, molto chiuso, però era l'Inghilterra, era l'Europa. In America e negli Stati Uniti in realtà, che ne so, il tour di Bowie risultò di fatto un flop, o perlomeno non fu altrettanto esplosivo come invece lo fu in Europa. Questo perché l'America e gli Stati Uniti erano molto più profondamente gretti in qualche maniera, o perlomeno non lo so il perché, di fatto non erano forse pronti. Ma nonostante ciò c'erano dei personaggi che provavano e ci riuscivano a fare la loro parte abbondantemente bene. Tra questi i più ovvi sono i New York Dolls e Iggy Pop. Non so voi, ma io arriverei all'ascolto obbligato, con visione dei video, perché l'audio non basta, dei New York Dolls per tutta la scena punk hardcore attuale, soprattutto quella italiana, che ancora di passi avanti ce n'è da fare. Ma a parte queste mie vene staliniste, che sono di fatto soltanto minacce, ma poi alla fine vi voglio bene lo stesso, ascoltiamocele almeno questa volta qui, almeno a Slick Chick. I New York Dolls, tra le mille che potevo scegliere, ho scelto Chatterbox. 1, 2, 3, 4. Assolutamente non confondibili Iggy e gli Stooges con Give Me Danger, uno dei miei pezzi preferiti di sempre degli Stooges, ma forse anche in generale uno dei miei pezzi preferiti, e quindi non potevo non rifilarvelo. Proseguiamo e cambiamo un pochino filone, beh direi un bel po', però rimaniamo in Inghilterra perché parliamo dei Throbbing Gristle. Throbbing Gristle sono, sicuramente conosciuti per la loro proto-industrial, però in particolare sono anche molto conosciuti per le loro performance live. Performance che tra l'altro, a dispetto dei dischi, dove invece sono molto composti, molto in qualche modo appunto macchine, le performance live sono molto più scomposte, mi verrebbe da dire. Tra l'altro i due essenzialmente che facevano più casino erano il cantante Genesis Porridge, avevano tutti questi nomi buffi, e che tra le varie cose strillava, lo sentirete, aveva un modo di cantare molto interessante e molto bizzarro, e si mutilava con vetri, con lamette, cosa che poi insomma non è stato l'unico e forse neanche il primo, ma comunque sicuramente non l'ultimo. E poi c'era la modella, sì, era una modella, Così Fanno Tutti, si chiamava così, non so bene se perché non sapeva come si scriveva in italiano, comunque lei si chiamava così. Così fanno tutti. Ecco, che anche lei faceva parte del gruppo e molto spesso si esibiva sul palco completamente nuda, mentre sugli schermi alle sue spalle apparivano video porno e riprese di campi di concentramento nazisti, intervallati da foto di cadaveri o spezzoni di autopsie. Cose, insomma, di un certo spessore, molto ridenti e piacevoli, ecco. Celebre fu durante un concerto nel 1976. Io ribadisco l'anno perché, insomma, se no nel 2017 può sembrarci tutto un po' già visto, ma ecco, siamo nel 1976. Concerto all'Institute of Contemporary Arts di Londra, non al Next Emerson, ma all'Istituto di Arte Contemporanea, dove ci fu questa esibizione in cui, appunto, Così fan tutti si tolse l'assorbente interno e ci disegnò, con questo disegnò una svastica sul petto del cantante Porridge. Questo fu probabilmente uno degli episodi che rimasero di più in testa alle persone, ecco, non solo in testa probabilmente. Quindi, e ci ascoltiamo Robin Crystal e beh, effettivamente non diciamo che sono un po' tirati per i capelli dentro lo shock rock, però direi che di scioccante, insomma, in qualche maniera c'era abbastanza. E quindi, in particolare di Robin Crystal, ci ascoltiamo What a Day. Oh, nice. E vabbè, e dopo i Throbbing Gristle dobbiamo per forza arrivare a un personaggio, direi, controverso. Controverso, vi piace? È una cosa che potrebbero dire anche in un telegiornale, tipo, non lo so, La 7, un personaggio controverso. Sì, era un personaggino un po' sicuramente disturbante, sicuramente scioccante. Difficile da classificare, mettiamola così. Si tratta di Gigi Allin. Gigi Allin era un cantante essenzialmente che bazzicava vari gruppi, non è da ricordare come cantante di un solo gruppo, in realtà ne ha girati parecchi. Nel pezzo che ci andiamo a ascoltare tra poco, lui cantava insieme a dei Jabbers, ma non solo, insomma, ne ha girati parecchi. Gigi, le due iniziali, Gigi, poi vedremo il perché, non è ricordato solamente per la musica, anzi io direi che probabilmente per la sua musica ben poco, ma più che altro per le sue i suoi spettacoli dal vivo che, si comprendevano, ma non direi che cioè erano proprio solo gesti estremi. Gigi Allin si esibiva quasi sempre nudo, quasi sempre completamente nudo. Altre sue simpatiche abitudini era defecare sul palco, automutilarsi, sesso orale con fan, risse ovviamente, arresti, sputi, sangue, un sacco di cose, ecco. Ecco, essenzialmente potremmo sintetizzare tutto con sangue e merda, mi verrebbe da dire, ma forse sarebbe anche poco. Tra l'altro, altra cosa che lo contraddistingueva erano i testi controversi, sicuramente provocatori, che scriveva lui, con dei temi, tipo misoginia, pedofilia, blasfemia, razzismo e quant'altro. Di fatto per un motivo o per un altro i suoi concerti finivano quasi sempre in risse, anche generalmente piuttosto violente. Ma l'importante, secondo me, quando si parla di Gigi Allin, ancora di più che con il povero Alice Cooper, è parlare della sua provenienza, insomma, delle sue note biografiche. Infatti, il suo vero nome era Jesus Christ Allin, e potremmo anche chiuderla qui, secondo me. Il nome gli fu dato dal padre, che era un uomo, come possiamo dire, molto religioso, ecco, potremmo dire così. In tenera età, il fratello maggiore, Merle Allin Jr., era, e anche qui potremmo chiuderla qui, era incapace di pronunciare il nome Jesus. E perciò iniziò a chiamarlo JJ, che divenne poi Gigi. Secondo me questa cosa è bellissima, ma vabbè. Gigi trascorse l'infanzia, immaginate in che condizioni ridenti, in una casetta di legno senza acqua né elettricità. E il padre proibiva qualsiasi conversazione in casa dopo il calare del sole. Che si sa, è peccato dopo il calore del sole, perché le onde si propagano diversamente, non si può parlare perché poi ti ascoltano. E vabbè, diciamo che questa cosa continuava, cioè, insomma, questo suo problemino, probabilmente dovuto già ai suoi ridenti anni dell'infanzia, gli ha provocato evidentemente qualche turba e queste turbe ce l'ha un po' ritirate in faccia dopo. Essenzialmente il fulcro di tutto era l'autolesionismo e Allin descrisse però se stesso come l'ultimo vero rocker. Beh, questa cosa poi l'hanno detta un po' tutti, ma vabbè, cioè di se stessi, ma vabbè. E intendendo in qualche modo che il rock and roll era iniziato come una pericolosa e sovversiva forma di ribellione giovanile, anti-autoritaria e liberatoria, ma che poi si era di fatto negli anni annacquata e addomesticata attraverso il music business, eccetera, eccetera. Cosa abbastanza condivisibile, abbastanza anche ovvia, e che certamente non diceva solo lui, ma Gigi Alley, ecco, portava un po' all'estremo la sofferenza dovuta a tutto questo. All'epoca i concerti venivano spesso fatti terminare dalla polizia dopo pochissimi brani, e ci furono un sacco di denunce che gli arrivarono per oltraggio al pudore, aggressione, atti osceni in luogo pubblico, lesioni, un po' di tutto, insomma, resistenza, vabbè, immaginatevi. Un'altra cosa che Gigi Allen continuava a fare era spesso, era continua, perpetua minaccia del suicidio in diretta. Nel 1989, ad esempio, Allen scrisse a Maximum Rock and Roll dichiarando che si sarebbe suicidato sul palco durante la notte di Halloween del 1989, ma in realtà passò quel giorno in prigione e quindi non si suicidò, evidentemente. L'ultimo concerto di Gigi Allen, particolarmente importante questa ultima nota di cui voglio parlare perché rende perfettamente il personaggio. L'ultimo concerto si svolse il 27 giugno del 1993 in un piccolo locale chiamato The Gas Station a Manhattan. E durante la canzone venne a mancare la luce, andò via la luce, la corrente, quindi Allen impazzì, corse in strada nudo e coperto di sangue e merda, seguito da un numeroso, insomma, da diversi spettatori, chiaramente immagino un po' di isteria, isteria che peraltro probabilmente c'era già da prima. E dopo aver girato per ore le strade, a un certo punto Allen tornò a casa, la sua casa dove viveva insieme a un amico, John Handley, e continuò la festa, con una festa a base di eroina, alcol, eccetera, eccetera, e morì di overdose. Le altre persone, attenzione, non si accorsero che era morto Gigi Allen fino alla mattina dopo. Immaginatevi un po' la situazione. A quel punto chiamarono un'ambulanza e vabbè, e a quel punto Gigi Allen fu dichiarato morto all'arrivo degli infermieri. Aveva 36 anni, ma non è finita perché Gigi Allen morì il 28 giugno del 1993, appunto a New York, ma su richiesta del fratello il suo corpo non fu lavato e il suo funerale divenne una mega festa, un mega festino, con gli amici che si facevano le foto col cadavere, mettendogli pasticche, droga, eccetera, in bocca, dandogli da bere, eccetera. Il video di questa simpatica ricorrenza di questo funerale è disponibile in un DVD, perché prima era un VHS e successivamente un DVD chiamato Hated Gigi Allen and the Murder Junkies. E beh, sì, su YouTube trovate, se siete particolarmente necrofili, questa registrazione e questo video. Io non ci tengo particolarmente, quindi non l'ho guardato, però se voi invece ci tenete lo potete vedere. E diciamo che, insomma, ecco, in quanto a shock rock, probabilmente Gigi Allen ne sapeva un bel po', soprattutto, beh, fino in fondo, ecco, ho fatto shock rock. Quindi ascoltiamoci Gigi Allen con No Rules. I won't take no shit from you. I don't care if you questo era Gigi Allin, appunto, quel simpaticone, quella vecchia canaglia di Gigi Allin. E probabilmente ho scelto il testo, non lo so, un po' più presentabile, non lo so, spero. E basta con Gigi Allin e le sue iscrizioni. E continuiamo invece e chiudiamo a questo punto la trasmissione, perché siamo quasi in chiusura con gli ultimi due pezzi. Chiudiamo in bellezza, basta con tutto quel disagio. Chiudiamo in bellezza con lo Psychobilly. Beh, insomma, un po' di disagio c'era anche lì, ma almeno più divertente. Non c'è bisogno di dire molto sui Cramps, credo. I Cramps ve l'ho già rifilati in diverse occasioni, anche qui come con i Glam, non pensate di averla scampata, ne avrete ancora un bel po'. I loro concerti erano violentemente liberatori, basterebbe guardarsi il video del live al Napa State Mental Hospital per capire tutto, direi, ma basta guardarne proprio, non lo so, 5 minuti e già si intuisce. I Cramps, effettivamente io ce l'ho infilati nello Shock Rock, anche se probabilmente non ne fanno, cioè non li troverete nelle liste degli Shock Rockers, ma perché secondo me in qualche maniera hanno scioccato quantomeno qualche generazione, o almeno una parte, qualche porzione di generazione. E sicuramente hanno poi influenzato anche quello che veniva dopo. Quindi vi faccio ascoltare un pezzo, anche qui avevo veramente l'imbarazzo della scelta, perché io vi confesso che i Cramps li adoro e mi ascolterei un po' tutto, ma vi faccio ascoltare The Creature from the Black Leather Lagoon, tanto per rimanere in tema di mostri, zombie, horror, e riallacciarci un po' all'inizio della trasmissione, e quindi a Screaming Jay Hawkins, da cui peraltro i Cramps hanno attinto a man bassa. Quindi The Cramps, The Creatures from the Black Lagoon. You better ask my mama how to make a monster. I'm the creature from the black leather lagoon. And I'm a beautiful monster from outer space too. Learn how to shake my hips, I am the man of the sanctum, sanctum, can you make me tips, and then I find them, I'm a great creature, a black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, chicken run. Like a fireball flying down from the roof. quanto mi piacciono i Cramps, quanto mi piacciono i Cramps. Finisce così questa trasmissione, questa puntata di Slick Chick di mercoledì, l'ho detto? Forse non l'ho neanche detto, mercoledì 9 agosto. E vi ricordo che se per caso siete arrivati soltanto tardi e ve la volete riascoltare, potete riascoltarla in replica come tutte le settimane, il venerdì alle 14 o il sabato alle 16, o altrimenti se siete delle persone carine e brave, simpatiche e diligenti, mi ascoltate in diretta tutti i mercoledì intorno alle 21. Ma non solo, il palinsesto del Wombat è un po' devastato dall'estate, come avrete notato, ma d'altra parte è estate un po' per tutti, anche per il Wombat. Il Wombat oltretutto ha la pelliccia e soffre di più il caldo. E quindi sì, non sono rimaste tantissime trasmissioni in diretta, ma qualcosina è rimasto, e per chi non fa in diretta, in ogni caso abbiamo continuato a zeppare il palinsesto di repliche, repliche passate e repliche nuove, cioè di trasmissioni registrate ma che ancora erano inedite, non avete potuto ascoltare. Quindi insomma, rimanete sintonizzati, sintonizzati per una web radio, vabbè, fa un po' tristezza, ma comunque sì, rimanete ad ascoltare il Wombat. Vi ricordo ancora una volta il sito di riferimento wombat.noblogs.org e il contatto, la posta, la mail, la cosa più importante, postawombat@insiberia.net. E poi niente, rimanete in ascolto e, più o meno da venerdì ricomincia pure Ururu, ve lo dico perché me lo sono appena ricordato, perché è entrato in studio uno dei conduttori e quindi me lo sono ricordato. E quindi insomma, piano piano l'estate si allenta un po' e anche il Wombat ricomincia le dirette. Quindi rimanete con noi e per lasciarci in, non saprei se bellezza, ma comunque sia per lasciarci, visto che sono andata quasi direi rigorosamente in ordine storico, in ordine temporale, ci lasciamo con un pezzo sempre psychobilly, ma della scena attuale, perché si tratta di un pezzo del 2015, se non sbaglio, dei Demented Argot, e questo è Bodies in the Basement.